Dopo aver vagato a caso per parecchie miglia, troppo assorti per rendersene conto, scoprirono infine, consultando l'orologio, che era ora di essere a casa. Che ne sarà di Bingley e Jane? Fu un interrogativo che diede l'avvio a parlare dei fatti di quei due. Darcy era entusiasta del loro fidanzamento, era stato fra i primissimi ad avere notizia dell'amico. E permettimi di domandarti, ne fosti sorpreso? Affatto. Quando partì sentivo che doveva accadere presto. Vale a dire, avevi dato il tuo permesso? Fin qui l'avevo indovinato. E per quanto egli protestasse per quella sua espressione, ella si accorse di essere andata molto vicino al vero. La sera prima di partire per Londra, egli disse, gli confessai una cosa che sono sicuro che avrei dovuto confessargli molto tempo prima. Gli raccontai tutto quanto era accaduto per dimostrargli l'assurdità, l'impudenza della mia intromissione d'un tempo nelle cose sue. Bingley ne fu meravigliatissimo. Non aveva mai avuto il più lontano sospetto. Gli dissi inoltre che ritenevo di aver sbagliato nel supporre come avevo fatto, che tua sorella provasse dell'indifferenza per lui, e siccome avevo avuto modo di constatare ampiamente che da parte sua l'amore per lei non era punto diminuito, non nutrivo più alcun dubbio sulla loro felicità in avvenire. Elisabetta non seppe trattenere un sorriso, pensando alla disinvoltura con cui guidava i passi dell'amico. Quando gli dicesti che mia sorella lo amava, parlavi in base a un'osservazione tua personale o soltanto per quel che te ne avevo detto io la primavera scorsa? Per mia osservazione personale l'avevo tenuta d'occhio da vicino durante le due mie ultime visite qui ed ero convinto del suo affetto. E bastò la tua assicurazione, immagino, a convincere anche lui. Appunto, Bingley è un uomo di genuina modestia. La mancanza di fiducia in se stesso gli aveva impedito di rimettersi al proprio giudizio in un caso tanto delicato, ma la fiducia in me gli rese tutto facile. Fui costretto a confessargli una cosa che lì per lì e non a torto lo offese. Non seppi nascondergli più a lungo che l'inverno scorso tua sorella era stata 3 mesi in città, che io l'avevo saputo, che gliel'avevo celato di proposito. Egli si sdegnò, ma il suo sdegno si dileguò, ne sono certo, quando non ebbe più dubbi sui sentimenti di tua sorella. Ormai mi ha perdonato di cuore. Elizabeth aveva una gran voglia di osservare che Bingley era stato un amico delizioso, così facile da guidare da essere addirittura inestimabile, ma si trattenne. Si ricordò che Darcy doveva ancora imparare a lasciarsi prendere in giro ed era forse troppo presto per incominciare. Egli continuò a conversare, facendo previsioni per la felicità di Bingley, che naturalmente doveva essere inferiore soltanto alla sua propria, finché raggiunsero la casa. Nell'ingresso si separarono. Capitolo 59. Lizzie cara? Dove mai eri andata a finire? Fu la domanda che Elizabeth si sentì fare da Jane appena entrò nella stanza e che tutti gli altri le ripeterono nel mettersi a tavola. Non le rimaneva altra risposta se non dire che avevano vagabondato più di quanto avesse creduto lei stessa. Arrossì nel dare quella risposta, ma né questo né altro valse a destare alcun sospetto. La sera passò tranquillamente, non sottolineata da alcunché di speciale. Gli innamorati ufficiali chiacchieravano e ridevano, quelli non ufficiali se ne stavano in silenzio. Darcy non era per natura di quelli che debbono sfogare in chiassosa allegria l'ultima gioia, ed Elizabeth, confusa e turbata, sapeva di essere felice più di quanto non si sentisse, poiché oltre il senso di imbarazzo immediato, altri guai le si prospettavano. Faceva previsioni su quel che sarebbe successo in famiglia quando fosse stata nota la cosa. Si rendeva conto che Darcy non piaceva a nessuno tranne che a Jane e temeva persino che negli altri l'antipatia fosse così radicata che tutte le sue sostanze e la sua imminente posizione non sarebbero servite a cancellarla. Prima di andare a letto, aperse il suo cuore a Jane. Sebbene il sospetto fosse l'ultima delle caratteristiche della signorina Bennet, questa volta ella si dimostrò assolutamente incredula. Tu scherzi, Lizzie? Non può essere! Fidanzata al signor Darcy? No, no, non me la fai! So che è impossibile! Bel modo incoraggiante di incominciare. Tu eri l'unica mia speranza, io sono sicura che nessuno mi crederà se tu non mi credi. Eppure dico sul serio, non dico altro che la verità. Mi vuole ancora bene e ci siamo fidanzati. Jane guardò dubbiosa. Oh, Lizzie, non può essere. Lo so che ti è tanto antipatico. Tu non ne sai nulla. Tutto questo va dimenticato. Forse non gli ho sempre voluto tutto il bene che gli voglio adesso. Ma in casi simili una memoria troppo precisa è imperdonabile. È l'ultima volta che me ne ricordo io stessa. La signorina Bennet aveva ancora l'aria sbalordita e di nuovo con maggiore serietà Elizabeth le assicurò che era vero. Santo cielo, ma è proprio possibile dunque? Eppure ora devo crederti, esclamò Jane. Cara, carissima Lizzie, vorrei farti. Ma no, ti faccio i miei rallegramenti. Ma sei sicura? Scusami la domanda, sei proprio sicura che sarai felice vicino a lui? Non c'è nemmeno da dubitarne. È già stabilito fra noi che saremo la coppia più felice del mondo. Ma sei contenta, Jane? Ti piacerà di averlo per cognato? Molto, moltissimo. Nulla potrebbe far più piacere a Bingley e a me. Ma lo ritenevamo impossibile, ne parlavamo come di una cosa ineffettuabile. E gli vuoi proprio abbastanza bene? Oh, Lizzy, fa qualunque cosa piuttosto che sposarti senza amore. Sei proprio sicura di provare quel che dovresti? E come? Ti sembrerà piuttosto che io provi più di quel che dovrei quando ti avrò detto tutto. Che intendi dire? Ma devo confessarti di volergli più bene che a Bingley. Adesso ho paura che ti arrabbierai. Mia carissima sorellina, sii seria, te ne prego. Voglio fare dei discorsi molto seri. Fammi sapere tutto quello che devo sapere senza indugio. Mi vuoi dire da quanto tempo sei innamorata di lui? La cosa è venuta così, a grado, che non saprei dire quando cominciò. Ma credo che devo far risalire all'inizio a quando vidi la sua bella tenuta di Pemberley. Una nuova supplica di parlare sul serio tuttavia produsse l'effetto desiderato e Jane fu tosto soddisfatta dalle solenni dichiarazioni dell'amore della sorella per Darcy. Una volta rassicurata su questo punto, la signorina Bennet non ebbe più nulla da desiderare. Ora sì che sono felice, perché tu lo sarai quanto me. Io ho sempre apprezzato Darcy, non fosse altro che per il suo amore per te, dovevo stimarlo. Ma ora, nella sua qualità di amico di Bingley e di sposo tuo, non ci potete essere che Bingley e te, di più cari al mio cuore. Però, Lizzie, come sei stata cauta e riservata con me, quanto poco mi hai raccontato di ciò che era accaduto a Pemberley e a Hampton. Tutto quel che ne so lo debbo ad altri, non a te. Elisabeth le rivelò le ragioni della sua segretezza. Non aveva desiderato parlare con lei di Bingley e il suo stato d'animo incerto l'aveva ugualmente spinta ad evitare di nominare il suo amico, ma ormai non voleva continuare a celarle la parte che Darcy aveva avuto nel matrimonio di Lydia. Le rivelò ogni cosa e metà della notte fu spesa in discorsi. Dio mio! Esclamò la signora Bennet la mattina dopo, mentre stava affacciata alla finestra. Guarda un po' quell'antipatico del signor Darcy che se ne viene di nuovo qui col suo caro Bingley. Ma che intenzioni ha con questi suoi continui andirivieni? Mi risultava che se ne sarebbe andato soltanto a caccia o a che so io, senza venire a seccare noi con la sua compagnia. Che cosa ce ne facciamo? Lizzy, bisognerà che tu vada di nuovo fuori a spasso con lui, in modo che non stia tra i piedi a Bingley. Elizabeth trattenne a stento una risata a quell'appropriata risposta. Ma era davvero irritata che sua madre dovesse sempre parlare di lui in quei termini. Appena entrarono, Bingley la guardò con tanta espressione e le strinse la mano con tanto calore da non lasciarle i dubbi che fosse ben informato, e poco dopo disse ad alta voce: Signora Bennet, non ha più altri sentieri qui nei dintorni che Lizzie possa smarrircisi anche oggi? Stamane consiglio al signor Darcy, a Lizzie e a Kitty di andare a piedi fino a Oakham Mount. Una bella passeggiata lunga, il signor Darcy non ha mai visto quel panorama. Può darsi che vada benissimo per gli altri due, rispose il signor Bingley, ma sono sicuro che per Kitty sarà eccessiva. Non è vero, Kitty? Catherine ammise che sarebbe rimasta a casa più volentieri. Darcy mostrò una grande curiosità di vedere il panorama da quel colle ed Elizabeth acconsentì in silenzio. Mentre saliva le scale per andarsi a preparare, la signora Bennet le andò dietro per dirle: Mi spiace, Lizzy, che tu sia costretta a goderti da sola quell'antipatico, ma spero che non ti importi. È tutto per amore di Jane, sai, e non è necessario che tu gli stia a fare conversazione, salvo una parola di tanto in tanto, perciò non prendertela. Durante quella passeggiata fu deciso di chiedere il consenso del signor Bennet nel corso della serata. Elizabeth si riservò di parlarne lei alla madre. Non sapeva figurarsi come avrebbe presa la cosa la mamma. Le veniva talvolta il dubbio che non sarebbero bastate tutte le ricchezze e il fasto di lui per farle vincere l'antipatia che provava per Darcy. Ma sia che si fosse violentemente opposta alla loro unione o che ne fosse stata entusiasta, Era certo che tanto nell'uno quanto nell'altro caso si sarebbe comportata in modo da fare onore al suo buon senso, e le era ugualmente insopportabile l'idea che il signor Darcy dovesse ascoltare le prime scandescenze della sua gioia o il primo sfogo della sua disapprovazione. La sera, appena il signor Bennet si fu ritirato in biblioteca, Elizabeth vide Darcy che si alzava per seguirlo, e la cosa la mise in grande agitazione. Non che temesse un diniego da parte del padre, ma il pensiero che per causa sua egli avesse a trovare della pena, che proprio lei, la sua figliola prediletta, dovesse affliggerlo per la scelta fatta, che gli potesse lasciarsi afferrare da timori e rimpianti al momento di disporre di lei, le faceva male al cuore e rimase tutta triste finché non ricomparve il signor Darcy. Nel rivederlo si sentì un po' confortato dal suo sorriso. Qualche minuto dopo, egli si avvicinò alla tavola dove ella era seduta con Catherine e, fingendo di ammirare il suo lavoro, le bisbigliò: «Va da tuo padre, ti aspetta in biblioteca». Elizabeth non attese un istante. Il babbo stava passeggiando su e giù per la stanza col viso grave e turbato. «Lizzy, che diamine combini? Sei uscita di senno per accettare quell'uomo? Non l'hai sempre detestato?» Come rimpianse allora di non aver nutrito il passato, opinioni più ragionevoli, di non averle espresse con maggiore moderazione. Ciò le avrebbe evitato spiegazioni e dichiarazioni che era imbarazzatissima ad offrire, ma ormai erano necessarie, e non poco turbata lo assicurò del suo affetto per il signor Darcy. «Cioè, in altre parole, sei decisa a sposarlo? Certo, è ricco e potrai avere vestiti e carrozze da superare anche Jane, ma basteranno a renderti felice?» «Non ha altre obiezioni? All'infuori di codesta convinzione della mia indifferenza?» «Nessun'altra. Lo conosciamo tutti per un individuo altezzoso, poco simpatico, ma ciò non sarebbe nulla se tu gli volessi veramente bene». «Gliene voglio. No, gliene voglio», ella rispose con occhi pieni di pianto. «Lo amo. Non è orgoglio fuori luogo il suo. È buono, è gentile. Lei non lo conosce a fondo. Perciò la prego di non addolorarmi parlandomi di lui in questi termini. Lizzy, le ho dato il mio consenso. È proprio un tipo d'uomo a cui non saprei mai rifiutare nulla di quel che si degnasse di chiedermi. Ora lo do anche a te, se sei decisa a sposarlo. Ma lascia che io ti consigli a pensarci meglio. Conosco la tua indole, Lizzy. So che non potresti essere né felice né degna di rispetto se non stimassi veramente tuo marito, se non lo sentissi superiore a te. La tua viva intelligenza ti porrebbe in un serio rischio se dovessi fare un matrimonio inadeguato. Non riusciresti ad evitare il discredito, l'umiliazione. Bambina mia, non darmi il dolore di vedere te incapace di rispettare il compagno della tua vita. Non sai che cosa stai per fare». Elisabetta, ancora più turbata, fu seria e solenne nel ribattere, e finalmente, dopo avergli detto ripetutamente che il signor Darcy era proprio l'oggetto della sua scelta, dopo avergli spiegato il graduale mutamento dell'opinione che si era fatta di lui, dopo essersi dichiarata assolutamente sicura che l'amore che egli le portava non datava da un giorno, ma aveva resistito alla prova di molti mesi di dubbio, dopo aver enumerato con foga tutte le sue buone qualità, finì col vincere all'incredulità del padre riconciliandola a quell'unione. «Ebbene, cara, non ho altro da dire. Se è così, ti ha meritata. Non avrei potuto separarmi da te, Lizzy mia, per darti a qualcuno di meno degno». Per completarne il genitore la favorevole impressione, ella gli raccontò allora ciò che il signor Darcy aveva fatto spontaneamente per Lydia. Egli l'ascoltò sbalordito. «Questa è la sera dei miracoli, perbacco. Dunque, è Darcy che ha fatto tutto, che ha combinato il matrimonio, ha dato i quattrini, ha pagato i debiti di quell'individuo e gli ha ottenuto il brevetto. Tanto meglio. Mi risparmierà un monte di noie e di economie. Se fosse stato tutto opera di tuo zio, avrei dovuto e voluto ripagarlo. Ma questi giovani ardenti, innamorati, fanno tutto a modo loro. Domani gli offrirò di pagarlo. Egli farà fuoco e fiamme, adducendo il pretesto del suo amore per te, e la faccenda sarà liquidata». Si sovvenne poi dell'imbarazzo di Elizabeth pochi giorni prima nel leggere la lettera del signor Collins, e dopo essersi burlato di lei per un poco, infine la lasciò andare via dicendole mentre usciva dalla stanza: «Se vengono dei giovanotti a chiedere la mano di Mary e di Kitty, fagli entrare, sono a loro disposizione». Elizabeth si sentiva caduta in un gran peso dal cuore, e dopo mezz'ora di tranquilla meditazione in camera sua, poté raggiungere gli altri sufficientemente composta. Era ancora tutto troppo recente per abbandonarsi all'allegria, ma la serata trascorse pacifica. Non v'erano più ostacoli materiali da paventare e il conforto e la pace dell'intimità sarebbero venuti col tempo. A tarda sera, quando la madre salì nel suo salottino, Elisabeth la seguì e le diede l'importante notizia. L'effetto fu particolarissimo, poiché appena uditala, la signora Bennet rimase immobile nella poltrona, incapace di spiaccicare una parola, e ci vollero parecchi minuti prima che avesse afferrato il senso di ciò che aveva udito, benché di solito fosse tutt'altro che tarda nel capire ciò che tornava a vantaggio della famiglia o si presentava in veste di un pretendente per qualcuna delle figlie. Infine cominciò a riprendersi, ad agitarsi sulla poltrona, ad alzarsi, a risedersi, ad uscire in esclamazioni di sorpresa e di estasi. Dio del cielo, che il Signor mi benedica! Ma pensa, povera me, il signor Darcy, chi l'avrebbe immaginato, ma è proprio vero. Oh, Lizzy, tesoro mio, come sarai ricca e signora! Che spillatico, che gioielli, che carrozza avrai! Jane non è nulla in confronto, nulla di nulla! Come sono contenta, sono così felice! Un uomo tanto affascinante, tanto bello e così alto! Lizzy mia, ti prego, scusami con lui se l'ho avuto tanto in uggia finora. Spero che non ci farà caso. Cara Lizzy, una casa in città, tutto quel che si può desiderare, tre figlie maritate, 10.000 sterline all'anno, signore, che ne sarà di me? Io impazzisco! Fu abbastanza per dimostrare a Elizabeth che non c'era da dubitare della sua approvazione e rallegrandosi di essere stata sola ad accogliere tutto quello sfogo, ella poco dopo se ne andò. Ma prima che fosse rimasta sola 3 minuti in camera sua, la mamma le era accanto. Cara figliola mia, non riesco a pensare ad altro. 10.000 sterline all'anno e molto probabilmente di più. Vale quanto un lord! È una dispensa speciale! Dovrete sposarvi e vi sposerete con una dispensa speciale! Ma dimmi, amor mio, qual è il piatto che piace di più al signor Darcy, che posso prepararglielo per domani? Era questo un triste presagio di ciò che sarebbe stato il contegno della madre verso il signor Darcy in persona. Ed Elizabeth si accorse che, per quanto sicura del tenerissimo affetto di lui e tranquilla circa il consenso dei genitori, le rimaneva ancora qualcosa da desiderare. Ma l'indomani passò molto meglio di quanto si era aspettata, perché la signora Bennet aveva per fortuna una tale reverenziale timore del suo futuro genero che non s'arrischiava a parlargli se non quando le si presentava l'occasione di usargli qualche premura o di esprimergli la propria deferenza per la sua opinione. Elisabeth ebbe la soddisfazione di vedere che il padre si sforzava di fare amicizia con lui e non andò molto che il signor Bennet le assicurò di provare per lui una stima sempre crescente. Ammiro moltissimo tutti i miei generi. Forse Wickham è il mio prediletto, ma credo che anche tuo marito finirà per piacermi, come quello di Jane. Capitolo 60. Elizabeth, presto ritornata d'umore scherzoso, volle che il signor Darcy le spiegasse come aveva fatto a innamorarsi di lei. Come hai fatto a incominciare? Capisco che tu possa essere andato lievemente avanti una volta fatto il primo passo, ma che cosa può averti dato l'avvio? Non saprei precisare l'ora, il luogo, lo sguardo o le parole che vi hanno posto fondamento. Troppo tempo è passato. Mi ci trovai in mezzo ancora prima di sapere che avevo cominciato. La mia bellezza l'avevi subito contestata dall'inizio. E quanto ai miei modi. Il mio contegno con te si mantenne sempre sull'orlo della villania e non ti rivolgevo mai la parola senza desiderare di offenderti, anziché no. Sii sincero, dunque. Mi hai ammirata per la mia impertinenza? Ti ho ammirata per la vivacità del tuo ingegno. Chiamala pure sfacciataggine. Era ben poco di meno. Il fatto è che eri stomacato di belle creanze, di deferenza, di zelanti premure. Eri disgustato delle donne che parlavano e vedevano e pensavano soltanto per ottenere la tua approvazione. Io ho destato il tuo interesse perché ero così dissimile da loro. Ma se tu non fossi stato in fondo veramente buono, mi avresti detestata per questo. Invece, nonostante tutto il da fare che ti dai per mascherare i tuoi sentimenti, sei sempre stato nobile, giusto? Hai disprezzato sempre profondamente il cuor tuo, le persone che si dimostravano tanto assidue nell'adularti. Ecco, ti ho risparmiato la fatica di spiegarti. In verità, tutto visto e considerato, comincio a credere che sia una spiegazione ragionevolissima. Di me invece tu non conosci di sicuro la bontà vera e propria. Ma nessuno pensa questo quando si innamora. Non v'era forse bontà nel tuo tenero comportamento verso Jane quando si ammalò a Netherfield? Carissima Jane, che avrebbe fatto di meno per lei? Ma tu vedici pure la virtù ad ogni costo. Le mie buone qualità sono sotto la tua protezione e sta a te di esagerarle il più possibile. In cambio, aspetta a me di trovare spunti per punzecchiarti, bisticciare con te quanto più mi riesce, e voglio cominciare subito, domandandoti che cosa ti rese da ultimo così restio a concludere. Che cosa ti mise tanto in soggezione di fronte a me, quando venisti per la prima volta e poi ti fermasti a pranzo? Perché, soprattutto quando venisti in visita, avevi l'aria che non ti importasse nulla di me. Perché tu eri seria, taciturna e non mi incoraggiavi, ma io ero imbarazzata. E io pure. Avresti potuto conversare di più con me quando venisti a pranzo. Avrebbe potuto farlo chi avesse sentito meno intensamente di me. Che disgrazia che tu debba aver sempre pronto una risposta ragionevole e che io sia tanto ragionevole da accettarla. Ma mi chiedo quanto tempo avresti continuato se fosse dipeso solo da te. Chissà quanto ti saresti deciso a parlare se non ti ci avessi indotto io. La mia risoluzione di ringraziarti e della tua generosità verso Lydia sortì senza dubbio un grande effetto, troppo grande, temo. Perché doveva finire la morale se il nostro bene deriva da non aver mantenuto una promessa? Io, infatti, non avrei dovuto accennare all'argomento. Questo non va davvero. Non occorre che tu ti disperi. La morale è perfettamente salva. L'ingiustificabile tentativo di Lady Catherine di separarci servì a rimuovere ogni mio dubbio. No, la mia felicità di ora non la devo al tuo vivo desiderio di esprimermi la tua gratitudine. Non ero in disposizione d'animo da dover aspettare un incitamento da parte tua. Quanto mia zia mi aveva riferito, mi aveva dato speranza e fui subito risoluta a sapere tutto. Lady Catherine ci è stata di grande utilità, cosa di cui dovrebbe rallegrarsi perché è una sua passione rendersi utile. Ma dimmi, per che scopo sei venuto a Netherfield? Fu soltanto per fare una cavalcata fino a Longbourn e sentirti confuso? O ti eri proposto qualcosa di più importante? Il mio vero scopo era quello di vederti e di giudicare possibilmente se mai avessi potuto sperare di farmi amare da te. Il mio scopo dichiarato, ossia quello dichiarato a me stesso, era di vedere se tua sorella aveva ancora un'inclinazione per Bingley e in caso positivo fare a lui la confessione che gli ho poi fatta. Troverai mai il coraggio di annunziare a Lady Catherine ciò che sta per colpirla? È più facile che non trovi il tempo che il coraggio, Elizabeth. Ma lo devo fare, e se mi dai un foglio di carta, lo farò subito. E se non avessi anche una lettera da scrivere, potrei sedermi vicino a te, ad ammirare la tua calligrafia regolare, come fece un tempo un'altra signorina. Ma ho anche una zia che non deve più essere trascurata. Poiché non aveva desiderato ammettere quanta esagerazione v'era stata nell'interpretare la sua intrinsechezza col signor Darcy. Elizabeth non aveva ancora risposto alla lunga lettera della signora Gardiner, ma adesso che aveva da comunicare quella notizia che sapeva sarebbe giunta quanto mai gradita, si vergognava quasi di aver fatto perdere agli zii 3 giorni di gioia e di getto, scrisse quanto segue. Avrei voluto e avrei dovuto ringraziarla prima, carissima zia, per il suo lungo, affettuoso e esauriente resoconto. Ma per dire la verità ero troppo crucciata per scrivere. Lei aveva supposto più di quanto fosse in realtà, ma adesso supponga pure quanto le pare. Dia briglia sciolta alla fantasia, si soffermi con l'immaginazione su ogni volo che l'argomento le consente, e salvo che mi creda già sposata, non potrà sbagliare di molto. Dovrà scrivermi di nuovo prestissimo e tesserne le lodi molto più di quanto abbia fatto nella sua ultima. Grazie, grazie di cuore di non essere andati ai laghi. Come potevo essere tanto sciocca da desiderarlo? La sua idea dei cavallini nani è un amore. Faremo ogni giorno il giro del parco. Sono la creatura più felice del mondo. Forse l'hanno già detto altri prima di me, ma nessuno con tanta ragione. Sono persino più felice di Jane. Lei sorride molto. Io rido. Il signor Darcy vi invia tutto l'affetto che gli rimane dopo quello che dà a me. A Natale dovete venire tutti a Pemberley, sua, eccetera, eccetera. La lettera che il signor Darcy scrisse a Lady Catherine era di tono diverso e ancora diversa da entrambe fu quella inviata dal signor Bennet al signor Collins in risposta alla sua ultima. Egregio signore, sono costretto ancora una volta a importunarla per chiederle delle congratulazioni. Elizabeth andrà presto sposa al signor Darcy. Consoli Lady Catherine quando meglio le riesce. Ma se fossi al suo posto, io terrei per il nipote. Può dare di più. Coi migliori saluti, eccetera. I rallegramenti che la signorina Bingley fece al fratello per le sue prossime nozze furono tutto ciò che si può pensare di più tenero e insincero. Scrisse persino a Jane per l'occasione, per esprimere la sua gioia e ripeterle tutte le sue antiche dichiarazioni di simpatia. Jane non si lasciò illudere, ma ne fu commossa e, pur sentendo di non potersene fidare, non poté fare meno di risponderle molto più gentilmente di quanto sapeva che quella si meritasse. La gioia espressa dalla signorina Darcy nel ricevere analoghe notizie fu non meno sincera di quella che aveva provato il fratello mandandogliele. Quattro facciate furono insufficienti a contenere tutta la sua letizia, tutto il suo ardente desiderio di ottenere l'affetto della futura cognata. Prima che potesse giungere una risposta da parte del signor Collins o i rallegramenti da parte di sua moglie, ad Elizabeth, la famiglia di Longbourn venne a sapere che i Collins in persona erano giunti a Villa Lucas. La ragione di quel viaggio improvviso fu tosto palese. Lady Catherine si era tanto infuriata nel leggere il contenuto della lettera del nipote che Charlotte, la quale si rallegrava sinceramente di quell'unione, si preoccupò di starne alla larga finché la tempesta non fosse sedata. In quel momento, l'arrivo della sua amica procurò un vero piacere ad Elizabeth, sebbene durante i loro incontri fosse talvolta costretta a pensare di pagarlo caro quel piacere, quando vedeva il signor Darcy fatto segno a tutta la pomposità e alla strisciante cortesia del marito di lei. Egli lo sopportava tuttavia con calma ammirevole. Riusciva persino a dare ascolto con dignitosa compostezza a Sir William Lucas, quando questi gli faceva i complimenti per essere venuto a rapire il più sfavillante gioiello della regione ed esprimere la sua speranza di incontrarsi spesso con lui a corte. Se voleva alzare le spalle, aspettava che Sir William fosse fuori di vista. Un'altra e forse più grande prova della sua tolleranza era la volgarità della signora Phillips. E sebbene questa, come la sorella, avesse di più troppa soggezione per parlargli con la familiarità che la bonomia di Bingley incoraggiava, pur ogni volta che gli rivolgeva la parola non poteva meno di essere triviale, né il rispetto che portava, seppure riusciva a tenerla più zitta, l'aiutava ad essere più fine. Elizabeth faceva tutto il possibile per proteggerlo dalle reiterate premure di entrambi, sempre ansiosa di riservarlo tutto per sé o per quelli della sua famiglia a cui avesse potuto parlare senza trovarne umiliazione. E benché il senso di disagio che le veniva da tutto questo togliesse al periodo di fidanzamento molte delle sue gioie, serviva tuttavia ad accrescere le speranze per l'avvenire. E anticipava con delizia il giorno in cui avrebbero lasciato una compagnia così poco allettante per tutti e due, per entrare nella signorile intimità della loro cerchia familiare a Pemberley. Capitolo 61. Per il suo cuore di madre, felice giorno fu quello in cui la signora Bennet si sbarazzò delle sue due figliole più meritevoli. Con quale orgoglio soddisfatto si recò poi in visita dalla signora Bingley e parlò della signora Darcy, è facile indovinare. Per amore della sua famiglia, vorrei poter dire che l'avverarsi del suo ardente desiderio nel vedere accasate tante delle sue figliole producesse in lei un effetto così felice da renderla per il resto della sua vita una donna assennata, amabile e colta. Benché forse il fatto che rimanesse a volte nervosa e invariabilmente stupida fosse una fortuna per suo marito, il quale non avrebbe saputo apprezzare la felicità in una forma così insolita. Il signor Bennet sentì moltissimo la mancanza della sua secondogenita. L'affetto per lei lo faceva allontanare di casa più spesso di qualunque altra cosa. Era una gran gioia per lui andarsene a Pemberley, specie quando era meno aspettato. Il signor Bingley e Jane rimasero a Netherfield soltanto un anno. Una vicinanza così prossima alla signora Bennet e ai parenti di Meryton non si rese desiderabile nemmeno per il carattere d'oro di lui e il tenero cuore di lei. Fu allora che il desiderio tanto accarezzato dalle sorelle di Bingley venne esaudito. Egli comperò una tenuta in una contea confinante col Derbyshire e Jane ed Elizabeth, in aggiunta a tutte le altre loro fonti di felicità, si trovarono anche a 30 miglia l'una dall'altra. Con suo sostanziale vantaggio, Catherine passò la maggior parte del suo tempo con le sue sorelle maggiori. In un ambiente tanto superiore a quello a cui era stata abituata, subì un notevole miglioramento. Non aveva il carattere indomabile di Lydia e, allontanata dall'influenza dell'esempio di questa, divenne opportunamente sorvegliata e guidata, meno irritabile, meno ignorante e insipida. Naturalmente fu posta ogni cura nel preservarla dagli ulteriori svantaggi della compagnia di Lydia e, sebbene la signora Wickham la invitasse di frequente a passare un po' di tempo da lei, promettendo le feste di ballo e giovanotti, il babbo non la consentì mai a lasciarla andare. Mary fu l'unica a rimanere in casa e fu per forza distolta dalle sue erudite ricerche per via della madre, assolutamente incapace di rimanersene sola. Fu così obbligata a frequentare di più la società, ma le fu pur sempre concesso di moraleggiare su ogni visita mattutina, e siccome non aveva più da sentirsi mortificata nel confrontare la bellezza delle sorelle con la sua, il padre ritenne che si adattasse al cambiamento non troppo controvoglia. Quanto a Wickham e a Lydia, il loro carattere non subì metamorfosi per il matrimonio delle sorelle. Egli accettò con filosofia la convinzione che ormai Elizabeth sarebbe venuta a conoscenza tutta l'ingratitudine e la menzogna che di lui ancora ignorava. Nonostante tutto, non abbandonò completamente la speranza di riuscire a indurredarsi, a trovargli una solida sistemazione. La lettera di congratulazioni che Elizabeth ricevette da Lydia per le sue nozze le rivelò che quantomeno da sua moglie, se non proprio da lui, tale speranza era accarezzata. Ecco il testo della lettera. Mia cara Lizzy, ti auguro ogni bene. Se vuoi al signor darsi la metà del bene che voglio io, al mio caro Wickham, devi essere molto felice. È una gran consolazione saperti così ricca, e quando non avrai altro da fare spero che penserai a noi. Sono certa che a Wickham piacerebbe moltissimo un posto a corte e non credo che avremo mai abbastanza quattrini per vivere senza qualche aiuto. Qualunque sistemazione, sulle 300 o 400 sterline all'anno andrebbe bene. Però non parlarne al signor Darcy, se preferisci di no. Tua, eccetera, eccetera. Poiché si dava il caso che Elizabeth preferisse molto di no, cercò rispondendole di mettere fine a qualunque supplica o speranza del genere. Le mandò spesso però quell'aiuto che era in suo potere di offrire praticando una cosiddetta economia sulle sue spese private. Era sempre stato chiaro per lei che entrambe, come le loro, in mano a due persone dai bisogni così stravaganti e noncuranti dell'avvenire, sarebbero state insufficienti al loro sostentamento, e ogni volta che cambiavano residenza, o Jane o lei, erano sicure di venir richieste di un po' di aiuto per regolare tutti i conti. Anche quando la restaurata pace consentì loro di avere una casa, il loro tenore di vita fu irregolare al massimo grado. Si trasferirono sempre da un posto all'altro in cerca di una sistemazione economica e sempre spendevano più di quanto avrebbero dovuto. Non andò molto che l'affetto di lui per lei si mutò in indifferenza, quella di lei durò un pochino di più e, ad onta della sua gioventù e delle sue consuetudini, mantenne tutti i diritti e la buona reputazione acquisiti col matrimonio. Darcy, benché non avesse mai accettato di ricevere Wickham a Pemberley, tuttavia per amor di Elizabeth continuò ad aiutarlo nella sua professione. Lydia venne qualche volta ospitata loro quando suo marito se ne andava a divertirsi a Londra o a Bath, o dai Bingley stavano tutte e due sovente così a lungo che persino il signor Bingley si sentiva sopraffatto e giungeva al punto di progettare di far loro capire di andarsene. La signorina Bingley fu profondamente contrariata dal matrimonio di Darcy, ma poiché ritenne conveniente mantenere il diritto di farsi ospitare a Pemberley, depose ogni rancore, si mostrò più che mai affettuosa con Georgiana, quasi altrettanto premurosa con Darcy quando lo era stata fino a quel momento, e saldò tutti gli arretrati di cortesia che doveva a Elizabeth. Pemberley divenne da allora la casa di Georgiana e l'affetto fra le due cognate fu esattamente quale Darcy aveva sperato. Furono capaci di volersi bene a vicenda, proprio come si erano proposte. Georgiana aveva di Elizabeth il più alto concetto, sebbene da principio ascoltasse con una meraviglia che confinava con l'angoscia il suo modo vivace e disinvolto di parlare a suo fratello. Vedeva adesso divenuto oggetto di facezie lui, che le aveva sempre ispirato un rispetto che quasi superava la tenerezza. La sua mente si aprì a cognizioni di cui non si era mai imbattuta finora. Dalle parole di Elizabeth cominciò a comprendere che una donna può prendersi col marito libertà che un fratello non permetterebbe mai a una sorella di oltre 10 anni minore di lui. Lady Catherine fu estremamente indignata del matrimonio del nipote e, siccome volle sfogare tutta la genuina franchezza del suo carattere rispondendo alla lettera che glielo annunciava, gli si rivolse col linguaggio così ingiurioso, specialmente nei confronti di Elizabeth, che per qualche tempo ogni rapporto con lei fu troncato. Ma infine, esortato da Elizabeth, Darcy si lasciò indurre a passar sopra all'offesa e ad offrire una riconciliazione. E dopo un po' di resistenza, il risentimento delle zie cedette, o all'affetto per il nipote, o forse alla curiosità di vedere come la moglie sua si comportava. E si degnò di andarli a trovare a Pemberley, nonostante la profanazione subita da quelle selve, non soltanto a causa della presenza di una simile padrona, ma anche delle visite degli zii di questa dalla città. Quei Gardiner, essi rimasero sempre nei rapporti più amichevoli. Darcy era loro veramente affezionato, non meno di Elizabeth, ed entrambi furono costantemente animati dalla più calda gratitudine verso coloro che, avendola accompagnata nel Derbyshire, avevano fatto da tramite alla loro unione. Fine.